Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, buongiorno, vorrei farvi una domanda. Vorrei partire nella conversazione di oggi da una domanda che mi preme molto e che considero molto importante. Non è la solita domanda sul caso di Eluana Englaro, e cioè bisogna tutelare la sua libertà, bisogna tutelare i diritti legali del padre, bisogna fare un testamento biologico, una legge che consenta a tutti noi, a tutti i cittadini, di decidere come morire, cos'è la morte, se la vita è disponibile, cos'è la morte dignitosa. No, queste sono domande che faremo magari più in là, nel corso della conversazione, ma la prima domanda che voglio fare è la più semplice di tutto. In che mondo volete vivere? Da un lato c'è un mondo che è quello della clinica del Beato Talamoni di Lecco. Ci sono le suore misericordine che si occupano di questa ragazza che 17 anni fa si è addormentata e non si è più risvegliata. In realtà sto facendo un errore tipico. Eluana dorme quando viene notte e poi si sveglia al mattino. Ha il ciclo del sonno e della veglia. Ha una reattività quasi inesistente, nel senso che è priva della vigilanza della coscienza, non ha una coscienza vigile, ma viene trattata, viene fatta passeggiare, viene curata in tutti gli aspetti e viene accudita. È quella che si dice la carità cristiana, è lo spirito di misericordia. Le suore infatti sono le suore misericordine. Eluana è lì e attende di vedere quale sarà il suo destino. Forse morirà senza mai riprendere la vigilanza della sua coscienza, forse la scienza andrà avanti, le ricerche, ci saranno investimenti sulla ricerca, la speranza, persino la speranza cristiana diventerà un fattore di crescita della ricerca, e forse un giorno, come è accaduto in qualche caso, eccetera, si riuscirà a ristabilire invece un ciclo di coscienza vigile. L'altro mondo è il mondo della clinica Città di Udine. Adesso è tramontata questa ipotesi, ma era lì che stava per realizzarsi. L'ambulanza stava andando a prelevare Eluana. L'altro mondo è un mondo in cui, invece delle suore misericordine, hai il plotone dei volontari che da tutta Italia vanno in un istituto clinico dove si procede con le necessarie autorizzazioni e per decisione di un giudice smettono di nutrire e di offrire acqua, di idratare il corpo di Eluana. E siccome naturalmente morire di fame e di sete è una cosa terribile, diciamo questa cosa non si riesce a realizzare così facilmente. Perché dare la morte per fame e per sete è una cosa terribile, è un tabù forte. Un tabù forte ancora oggi nella nostra cultura. Questo mondo è il mondo dei volontari, dei volontari che pensano che la carità in realtà è offrire la soluzione dignitosa di morte a una persona, metterla in condizione di morire, farla morire, sopprimerla, per usare il linguaggio della verità. Sono due mondi incompatibili, sono due idee della carità assolutamente incompatibili tra loro. 800 24 00 24, la mia domanda è: in quale dei due mondi preferite vivere? Non riguarda Eluana, non riguarda il padre, non riguarda la sua coscienza, riguarda la nostra coscienza, il nostro modo di vedere, di concepire il mondo. Bene, stanno arrivando parecchie telefonate, ripeto il numero verde 800 24 00 24, ripeto la domanda che per prima porrò ai nostri due ospiti, poi parleremo anche col ministro Maurizio Sacconi di oggi, a Claudia Mancina e a Adriano Pessina. La domanda è: in quale mondo preferite vivere? Un mondo dove ci si comporta verso una persona nelle condizioni di profonda, radicale disabilità di Eluana Englaro, come le suore della clinica Beato Talamoni di Lecco, oppure un mondo in cui si apparecchia con un atto di volontà molto radicale e con un esercizio della ragione, diciamo, che tende verso il nulla, si apparecchia la morte dignitosa, cosiddetta, per Eluana in una clinica. Spero di non aver offeso la sensibilità di nessuno ponendo questa questione. Mi piacerebbe sapere intanto la risposta di Claudia Mancina, che è una docente di etica all'Università di Roma. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Ma io non posso rispondere, perché il modo in cui lei ha posto la questione non mi pare corrisponda al modo in cui le cose stanno. cioè lei ha descritto Eluana come una persona disabile, cioè quindi come una persona che sia pure in gravi difficoltà ha una vita personale, una vita in cui si esprime la sua personalità e la sua soggettività. Non solo, ma ha aggiunto anche che potrebbe, grazie ai progressi della medicina, potrebbe prima o poi risvegliarsi dalla sua situazione di coma persistente. Ora, a me non sembra che né la prima né la seconda cosa siano vere. Cioè, Eluana non è semplicemente una persona disabile, è una persona che da 17 anni, e non sono pochi, sono veramente tanti, ha completamente perso tutte le funzioni intellettuali e quindi di conseguenza una grandissima parte anche delle funzioni fisiche. Non è che Eluana viene accompagnata a fare una passeggiata, Eluana viene probabilmente portata fuori con una sedia a rotelle. Non è una persona che ha delle funzioni dimidiate, è una persona che non ha più funzioni intellettuali, che non ha più coscienza. Quanto ai progressi della medicina, io spero che ci siano. Mi scusi Mancina, io questo l'ho detto naturalmente, è una disabilità grave, non ha la coscienza vigile. Comunque la sua risposta è molto chiara, lei dice non posso rispondere in quale mondo voglio vivere perché secondo me Eluana è morta, non è viva, questa è la sostanza. Non ha una vita personale, che ha una vita vegetativa come appunto è la E quindi secondo lei è meglio... E quindi io ritengo che sia giusto in casi di questo tipo consentire, quando è stata espressa questa volontà, consentire che si venga accompagnati a una morte dignità. D'accordo, è comunque una risposta. Grazie. Adriano Pessina e poi la parola agli ascoltatori. Adriano Pessina insegna alla Cattolica di Milano, è anche lui un docente di questioni etiche e bioetiche, un'autorità indiscussa in materia. Prego, professor Pessina. Buongiorno a tutti, la ringrazio per questa domanda che pone un'alternativa radicale, ma mi sembra assolutamente seria. Purtroppo devo contestare la collega Mancina, perché probabilmente lei non è mai andato in un reparto di stati vegetativi permanenti, non ha mai visto le persone in stato vegetativo, non conosce la situazione clinica di queste persone, altrimenti non direbbe una cosa che io trovo assolutamente inaccettabile, nel senso che Eluana non è un vegetale, non è un puro corpo. Eluana è una persona che non ha più una parte delle attività legate alla corteccia. E questo, come dire, le impedisce una relazione, ma Eluana è assolutamente viva, anche se non è in grado di intendere e volere. E dico la verità, io vorrei vivere in un mondo in cui, in qualche modo, già siamo, un mondo che abbiamo guadagnato con grande fatica, un mondo nel quale il fatto se tu non hai più la coscienza, se tu non sei più in grado di intendere e volere, se tu non sei in grado di provvedere a te stesso, c'è qualcuno che in qualche modo è in grado di accudirti, certo con equilibrio, senza provocare danni o sofferenze. Dirò di più, io credo che il grande guadagno che la civiltà occidentale ha fatto è proprio quello di stabilire che l'uguaglianza fra le persone non si basa sulle capacità fisico mentali. Ci sono molte persone che purtroppo non sono autonome per tutta la loro vita. Ci sono bambini che nascono con gravi ritardi mentali e noi ce ne prendiamo cura. Io credo che farei anche un passo in più. Io non vorrei soltanto contare sulla bontà dei cristiani e sulla generosità, di alcuni volontari che mi accudiscano. Io vorrei che diventasse un principio, come sta diventando, un principio di giustizia sociale, che riconosce che a tutti è dovuto quel rispetto della vita che è il collante della vita sociale. Bene, grazie professor Pessina. La risposta è assolutamente chiara. Stefano da Roma. Un saluto a tutti. Buongiorno, un saluto. In quale mondo preferisce vivere lei? Un mondo in cui si cura una disabilità come quella o un mondo in cui si accompagna alla morte dignitosa cosiddetta una persona? Allora, io credo che le due cose non siano incompatibili, nel senso che io preferisco vivere in un mondo in cui il cittadino abbia la possibilità di scegliere tra l'una e l'altra soluzione. In questo caso, nel caso di Eluana Englaro, il curatore delle sue volontà ha deciso in un certo senso, cioè di porre fine alle sofferenze di questa ragazza che durano 17 anni. Io posso testimoniare personalmente sulle sofferenze che possono far parte della vita, tra virgolette, di una persona affetta da una malattia neurologica, avendo avuto in famiglia un nipote che poi è deceduto in maniera tragica a 14 anni affetto da adrenoleucodistrofia, e vi garantisco che non è una cosa assolutamente piacevole. Comunque, una volta che uno ha la possibilità di scegliere tra queste due realtà, uno sceglie, e se questa scelta è corroborata poi in questo caso da una sentenza della magistratura, cosa anomala già è, perché ci dovrebbe essere in Italia una legge che regolamenta queste cose senza affidare... Sì, poi verremo a questa parte legale, Stefano. La sua risposta però è molto interessante, volevo ributtarla su Adriano Pessina. La sua risposta si incentra sul problema della libertà di scelta. Lei dice ciascuno deve poter fare come crede, deve essere informato come medico. Benissimo, perfetto. Volevo sapere il parere di Adriano Pessina su questo. Il mio parere è che nel momento in cui si ritiene che la libertà deve essere riconosciuta come un valore, quindi come qualcosa di condiviso, bisogna andare a guardare non tanto l'esercizio della libertà, ma il contenuto della libertà. Che cosa esprime una determinata scelta? Ebbene, io credo che nel momento in cui questo contenuto della libertà introduce di fatto la possibilità di una discriminazione e di un giudizio, in qualche modo, sul fatto che una persona abbia valore in sé perché non è più in grado di intendere e volere, bene, io credo che questa impostazione non possa e non debba essere accettata da una società civile. Io credo che quindi una società debba porre dei limiti a un esercizio della libertà che introduce qualcosa che contrasta con il diritto fondamentale che vige in una società, che è il riconoscimento dell'uguaglianza e del diritto. Molto chiaro. Claudia Mancina, il tema della libertà ovviamente è molto importante e nel trattato, dalle voci, dalla cultura progressista, dalla cultura che si identifica con il mondo moderno senza riserve, con il mondo secolare che ha abbandonato, chiamiamoli così, i pregiudizi religiosi, è un'arma fortissima. Vorrei chiederle, c'è un limite alla libertà quando si parla di vita umana, secondo lei? Perché Stefano l'ha detta in modo così chiaro, così spontaneo, va rispettata naturalmente fino in fondo la sua opinione, ha detto si deve essere liberi di fare l'una e l'altra scelta, poi questo è il testamento biologico, no? Puoi dire voglio essere accudito, oppure puoi dire non voglio essere accudito, voglio morire appunto tra virgolette dignitosamente, che è sempre brutto da dire perché sembra che le altre morti o le altre vite non siano dignitose, non siano degne di essere vissute. Ma la libertà, cioè c'è un tabù, io penso di sì, per esempio, Claudia Mancina, c'è un tabù, la vita deve essere un tabù. Una cosa, la sacralità è poi quello, la separazione da tutto il resto, cioè deve essere al di là della nostra capacità e possibilità di fabbricarla e di distruggerla. Ma io credo che la vita debba essere sacra per gli altri, cioè la vita di ciascuno deve essere sacra per gli altri. E non vedo perché il professor Pessina, cioè mi dispiace che il professor Pessina, per contrastare la mia opinione, mi debba attribuire una ignoranza dello stato delle persone che non hanno più funzioni intellettuali, delle persone che stanno in quei reparti, eccetera. Voglio dire, è una forma di aggressione questa che si poteva risparmiare. Mi pare che possiamo discutere su opinioni diverse a prescindere dal riferimento alle esperienze personali, ognuno di noi avrebbe delle esperienze personali a cui riferirci. Comunque, fatta questa parentesi, Io penso che la vita sia la vita degli altri ed è sacra per me, e deve essere sacra per lo Stato e deve essere sacra per tutte le istituzioni, evidentemente in particolare per quelle sanitarie. Credo però che ciascuno di noi, di fronte alla morte o di fronte all'ipotesi della morte, di fronte all'idea della morte, che siamo, visto che stiamo parlando di direttive anticipate, abbia il diritto di definire delle condizioni, dei limiti, dei limiti oltre i quali non vuole accettare trattamenti. Perché qui, dottor Ferrara, mi sembra che ci sia un punto che deve essere messo in evidenza. Noi non stiamo parlando della morte naturale, non stiamo parlando di un processo naturale che avviene come poteva essere una volta. Stiamo parlando di una situazione nella quale la medicina, per fortuna, intendiamoci bene, ha sviluppato una capacità di intervento estremamente... Sì, è il cosiddetto tema della vita artificiale, cioè in realtà c'è un elemento di artificialità nella rianimazione. Del processo del morire, c'è un rallentamento artificiale del processo del morire. È evidente che senza determinati presidi medici e interventi tecnologici, Eluana Englaro sarebbe morta o quel giorno lì o in un tempo molto breve. Quindi noi non possiamo parlare come se si trattasse di interrompere artificialmente una vita naturale, si tratta invece di rinunciare in determinate circostanze a terapie gravi, o cure che lei considera sì. A terapie o interventi che hanno una dimensione tecnologica molto forte. Chiarissimo, abbiamo al telefono Maurizio Sacconi, che è il ministro del welfare, ha anche la delega per la salute, e intanto lo salutiamo. Buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e ai suoi ospiti. Buongiorno. Una feroce requisitoria ieri sulla stampa di un giurista di valore, autorevole, Carlo Federico Grosso, parla di rottura della legalità. Non c'è più in Italia l'osservanza delle regole, viene messo in crisi lo Stato di diritto, c'è una prepotenza governativa, si riferisce al suo famoso atto di indirizzo del 16 dicembre, con il quale lei ha bloccato sostanzialmente, sebbene non fosse poi un atto vincolante. Lei ha detto che questa cosa non si deve fare su tutto il territorio nazionale. La soppressione di questa vita non si deve fare su tutto il territorio nazionale. Questo atto di indirizzo è prepotenza governativa, dice Carlo Federico Grosso, va contro il diritto di morire, che era stato riconosciuto a questa ragazza da una sentenza definitiva della Cassazione. E nella parte più dura della requisitoria, Grosso dice: nulla sul terreno giuridico è più consentito obiettare una volta che c'è stata una sentenza di un giudice. La sentenza deve essere eseguita, punto e basta. Nessuno è più legittimato a vietare, bloccare, frapporre ostacoli, ritardare. Lei come risponde a questa accusa di prepotenza? Intanto non dimentichiamo che si tratta di due interventi che hanno agito su piani completamente diversi. La Corte di Cassazione si è pronunciata solo per un caso specifico, non ha il potere di disporre in termini generali. Ha risposto sostanzialmente ad un quesito che era stato rivolto dal padre curatore della signora Eluana e che chiedeva appunto l'autorizzazione a por fine alla idratazione ed alimentazione artificiale e mentre invece l'atto di ricognizione che io ho compiuto non è nemmeno un atto di indirizzo, nel senso che non ha la caratteristica dispositiva tipica di un atto di indirizzo, ma ha voluto questo atto compiere una ricognizione circa i principi generali dell'ordinamento anche alla luce del parere autorevole del Comitato Nazionale di Bioetica e del prossimo ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'approvazione da parte del Parlamento del relativo disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui disabili. Questo atto di ricognizione muove da un... Mi scusi Ministro, il suo linguaggio è giustamente diciamo sul filo del diritto, quindi dell'atto di ricognizione eccetera, però andiamo alla sostanza delle cose. Lei è un militante socialista, lei è anche un intellettuale laico, lei non ha diciamo delle remore di tipo religioso, non ha un'obiezione di coscienza di tipo cultuale, no? Mi pare, o sbaglio? Beh, io sono un credente, ma... Sì. Di dover assumere un comportamento laico, il mio approccio è stato di tipo laico, cioè è compito dello Stato garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Tra i livelli essenziali di assistenza c'è certamente quello della idratazione e dell'alimentazione che devono essere garantite a qualunque persona in qualunque condizione si trovi. Io ho creduto doveroso ricordare al Servizio Sanitario Nazionale, non quindi innovando ovviamente, ma ricordare che secondo il nostro ordinamento tutti gli erogatori pubblici e privati del nostro Servizio Sanitario Nazionale devono garantire idratazione. Ecco, io vorrei dire anche una opinione, poi dopo la pubblicità magari ci torneremo sopra, Ministro. Ma insomma, qui si tratta di una, al di là della edulcorazione, degli eufemismi, di una condanna a morte. Perché accompagnare una persona a una morte dignitosa, toglierle il cibo e l'acqua, significa condannarla a morte. Mi rendo conto che sembra un linguaggio ricattatorio, ostile, triste, antipatico, ma questa è la verità, però dobbiamo prendere atto della realtà. Ora, c'è un po' un due pesi e due misure. Per esempio, sulle condanne a morte nel mondo ci si è battuti, gli stessi radicali che si battono per la condanna a morte di Eluana si sono battuti per la moratoria, per un atto, diciamo, antigiuridico. Quelle pure sono sentenze passate in giudicato. Quella gente deve essere uccisa, c'è il boia pronto e noi le vogliamo fermare, viva Dio, no? E chiediamo una moratoria. Cioè, ci sono dei principi, questo è il punto che vorrei trattare dopo la pubblicità, come dicono i tragici greci, come dice l'Antigone, ci sono dei principi umanitari, dei principi di diritto che riguardano l'umanità che è in noi, la natura di ciò che noi siamo come persone, che non c'è sentenza che tenga, devono essere difesi, appunto, con moratorie, atti di indirizzo, atti di ricognizione. Insomma, bisogna frapporsi tra l'atto di sopprimere una vita, se lo si ritiene ingiustificato moralmente, e bisogna impedirlo. Ivana da Latina. Sì, buongiorno. Pronto? Sì. Pronto? Mi sente? Eccomi qua. Sì, siamo qui, sentiamo benissimo. Allora, ascolti, io sono un'infermiera e sì. Ho prestato servizio anche di animazione e 17 anni anche in psichiatria. Adesso sono al 118. Allora, volevo dire che con tutto il rispetto per la vita umana, io sono una madre e ho avuto due figli, quindi l'ho donata la vita. Voglio dire che se volesse frequentare questi ambienti, si vedrebbe il grande dolore, ma il dolore immenso di delle persone che sono minimamente coscienti e dei loro parenti, che soffrono da morire, cioè soffre la famiglia in primis. E se la persona che sta male è minimamente cosciente, la sofferenza è immane. Allora voglio dire, per carità, con tutto rispetto per le suore, per il Vaticano e per tutti, allora, io qui, lavorando al 118, questa settimana abbiamo preso due diseredati, morti in strada, due poveri extracomunitari che erano in strada, morti perché nessuno li ha assistiti. Allora, assistiamo la gente che veramente ha bisogno di essere assistita. Queste persone che hanno deciso di morire loro stessi in una maniera dolce, perché anche io, se avessi un figlio in quelle condizioni, farei la stessa scelta. Perché in televisione fanno vedere questa ragazza bellissima e non fanno vedere come è ridotta adesso, effettivamente? Cioè, queste cose fanno male, perché il Vaticano non si deve intromettere in queste cose. Mi dispiace dirle, anche se fanno anche loro del bene, ma molte volte per gente che sta male veramente non fanno niente, muore la gente come le mosche per strada e nessuno se ne interessa. Questo lo devi dire anche a Sacconi, perché Sacconi è qui, della sanità, è qui adesso, sta facendo uno scempio. E questo è qui, scempio adesso le risponderà, però non prenda un tono militante, perché è così bella la sua telefonata, lei ha detto la sua opinione con tanta chiarezza, non c'è bisogno adesso di fare un assalto politico. Cioè, voglio dire, lei ha detto una cosa molto chiara, lei ha detto non tutte le vite sono uguali, è il contrario di quello che aveva detto prima il professor Pessina. Ci sono delle vite che vale la pena di accudire, la vita dei due extracomunitari che invece non sono stati accuditi e che hanno pagato con la morte per questo. E invece sono delle vite che è meglio accompagnare ad una morte dolce, perché non hanno più significato. Lei si è riferita anche alle sofferenze di persone che sono in condizioni ben diverse da quelle di Eluana, un reparto di psichiatria, eccetera. Cioè la gente che non è in grado di vivere è meglio che non viva. Lo capisco, è una vecchia cultura pagana pre-cristiana che ritorna nel mondo moderno e che dice che le vite non sono tutte uguali, ci sono quelle degne di essere vissute e quelle no. Ministro Sacconi, ha visto, c'è molta anima dietro questa obiezione. La gente, ovviamente in grande buona fede, pensa che le cose stiano così, che non tutte le vite siano degne di essere vissute. Ma intanto diciamoci che è benvenuta questa discussione. Credo che sia interrogarci sul senso della vita, sul confine tra la vita e la morte. Credo che questo dibattito sia in atto in fondo in tutti i paesi, e la stessa Convenzione delle Nazioni Unite ha dato conto di questa discussione. La norma che io ho richiamato e che fa riferimento alle persone disabili è stata definita sulla base del caso Terrischiavo, persona che è stata riconosciuta essere stata in una condizione di disabilità. Quindi a diversi livelli la discussione si è svolta, è ancora ovviamente aperta. Il legislatore italiano intende colmare quello che si è rivelato essere un vuoto alla luce della sentenza della Cassazione. Francamente io avrei preferito che su una materia di questo tipo non fossero necessarie leggi e non fossero necessarie sentenze, che ciascun caso potesse essere vissuto e regolato a sé in quella dimensione della responsabilità e della carità, potremmo anche aggiungere. Certo. In cui si incontrano la persona. Sì, anch'io la penso famiglia, che meno si legifera in questi casi e meglio è. Grazie, grazie molto, ministro Sacconi, è stato molto, molto cortese a collegarsi con noi. Grazie. Claudia Mancina, una domanda così che può sembrare periferica. Il caso Terry Schiavo è il caso, è stato appena ricordato qualche anno fa, di un marito che decide contro il parere dei genitori che vogliono invece accudirla e continuare a nutrirla e a darle da bere, decide di staccare il famoso sondino nasogastrico, fa anche lui una battaglia legale e ottiene dai giudici l'autorizzazione. Un marito, sua moglie. Il caso di Luana Anglare è un padre. C'è un significato nel fatto che questi casi sono sempre casi di ragazze, di donne e c'è sempre una figura tutoriale che è quella di un padre o di un marito? Ma non so cosa. Ci sono stati anche dei casi di uomini, di maschi, non è vero che ci siano solo casi di ragazze, c'è stato il caso di quello sportivo, ci sono stati vari casi di maschi in Svizzera, non mi pare che sia questo il punto. Il punto, semmai, il caso di Terry Schiavo è esemplare di un aspetto, di una complicazione molto grossa e molto seria, effettivamente non solo dal punto di vista pratico ma anche dal punto di vista morale, che può insorgere in queste situazioni, cioè che ci sia appunto un conflitto tra le persone che sono intorno al malato, diciamo così. E da questo punto di vista è effettivamente è giusto e necessario che venga nominato un tutore. Nel caso di Englaro abbiamo non soltanto il tutore, abbiamo anche il curatore, no? Cioè abbiamo due figure che si occupano. Sentiamo l'essenza del principio, che è un principio ovviamente anche del cuore, quindi non si può contestare al padre della signora Englaro, di Luana Englaro, di essere come è, di pensare come pensa, di sentire il problema come lo sente, perché naturalmente è al di sopra di ogni qualunque possibile nostro giudizio. Sentiamo però con un breve documento sonoro dalla trasmissione televisiva Exit, credo, che cosa è successo veramente nel cuore, nella mente di papà Englaro nel momento in cui ci fu l'incidente stradale. Riflettiamo su questo perché è molto importante, direi che è il punto decisivo. Il 18 gennaio 1992, Eluana stava rientrando a casa, la sua macchina in una curva è entrata in testa a coda sulla strada ghiacciata e ha avuto un violento impatto contro un muro. In ospedale si sono resi conto subito della gravità della situazione ed è stata intubata. Il caso ha voluto che Eluana, nella stessa rianimazione che è capitata a lei, era andata un anno prima a trovare un suo amico, anche lui era in condizioni disperate, come lo era l'Eluana, in uno stato di coma profondo. Si è resa conto perfettamente di che cos'era l'invasività dei protocolli rianimativi. È rientrata a casa sconvolta e ci ha detto: nel caso dovesse succedere a me una cosa del genere, voi dovete intervenire e far sospendere questi sostegni vitali, perché io provo orrore a essere invasa in tutto e per tutto nel mio corpo, quindi non a me, ricordatevelo, in questa situazione. Eluana per noi è morta il 18 gennaio 1992. Da quel giorno noi non abbiamo più potuto percepire l'Eluana. Da quel giorno l'Eluana non esiste più come persona. Ecco, è morta il 18 gennaio del 92. Da quel giorno Eluana non esiste più come persona per noi. Questo è un punto fondamentale. Anche nelle polemiche sull'aborto si dice sempre: se un bambino non è accettato da sua madre, se il prodotto di un concepimento non trova accoglienza e quindi la cura e quindi l'amore che sono necessari, si può accompagnare dignitosamente alla morte attraverso l'atto abortivo. Io trovo questo un delirio soggettivista. Non sto giudicando naturalmente il sentimento di papà Englaro, sto giudicando come dire, le idee, la cultura che questo sentimento produce, le conseguenze di un sentimento legittimo, perché è un sentimento paterno. Non, che una persona sia morta per me non ha nessun significato, che io non abbia la forza, la virtù o la caratteristica, anche semplicemente, senza nessun giudizio morale, di decidere sulla sua esistenza. Questo a me sembra il tabù dei tabù, una questione assolutamente di principio, fondamentale, dalla quale non si può prescindere. È un'opinione forte che io coltivo e nella quale credo. Mi piacerebbe sentire il professor Pessina su questo. Ma condivido molto questa sua impostazione, soprattutto penso una cosa, cioè la sofferenza che le persone provano di fronte al dolore, la sofferenza altrui può diventare davvero devastante. Oggi ci troviamo nelle condizioni in cui molte persone si sentono sole e non aiutate. Io in questo momento penso, come dire, alle migliaia di persone che accudiscono i loro cari a casa, magari senza avere anche l'aiuto che hanno le suore e che danno le suore a Eluana, e penso a una cosa fondamentale, cioè che laddove uno non ha il coraggio in qualche modo di accudire, in qualche modo ci deve essere la società che deve intervenire. La società da questo punto di vista deve essere un reticolo di solidarietà. Questa è, come dire, la differenza fondamentale fra una società in cui tutto è indifferente perché ognuno decide, come dire, in base alla propria privata visione della vita, e una società che invece dice: i miei cittadini sono tutti uguali, se tu non ce la fai ti aiuto io, se tu non ce la fai accudisco io questa persona, perché riconosco che questa persona è degna di essere rispettata innanzitutto perché esiste. E poi mi si permette di dire una cosa, basta col tema della vita artificiale, perché è assolutamente falso. Eluana Englaro è una persona in stato vegetativo, l'unica cosa artificiale è un sondino nasogastrico. Su questo c'è una testimonianza, credo, Emanuele da Roma. Pronto? Pronto, sì. Sì, pronto? Emanuele, lei si occupa di cure palliative. Sì, sono un infermiere di cure palliative. Lei quindi dovrebbe sapere se la vita di chi è nei reparti di rianimazione sottoposto a cure palliative è una vita artificiale o una vita naturale, un prolungamento della vita naturale. Il problema è che nelle reparti di rianimazione raramente si fanno cure palliative. Ci possono essere cure palliative nella rianimazione, certo, ma il problema è capire se abbiamo davanti una persona che si può stabilizzare, come Eluana, che si è stabilizzata e mantiene tutte le sue funzioni vitali, perché non è sostenuta da niente a parte il mangiare, che però se togliamo il mangiare a chi non riesce a portarsela alla bocca cominciamo ad eliminare tutte le geriatrie, cominciamo a eliminare tutti i bambini, cominciamo a eliminare tutti i neonati, perché questa è una cosa che è normale, che una persona che abbia anche un piccolo difetto fisico non riesca a mangiare. È la cosa più frequente che può succedere a una persona che sta male. Quindi lei dice, Emanuele, dare da mangiare e da bere a una persona che non lo può fare da sola, nel caso di Eluana, non è diverso che dare da mangiare e da bere a un bambino o a un vecchio in un reparto di geriatria che non è autonomo. Assolutamente no, perché il mangiare di per sé è una funzione che funziona da sola, il mangiare. L'inghiottire è una funzione che ha del cognitivo, dell'intellettuale. Però, ecco, su questo tema, Emanuele, grazie. Grazie. Su questo tema sentiamo Claudia Mancina. Questo tema della vita artificiale mi pare che si sia accesa una discussione che ha la sua importanza, perché il professor Pessina ha detto non... Finiamola. Senta, io intanto rispetto alla discussione che c'è stata prima vorrei tornare un attimo indietro. Abbiamo un minuto però, risponda su questa cosa della vita artificiale. Sono guardi, rispetto al discorso fatto prima, se non è viva per noi, è viva per noi. Dobbiamo sempre ricordare che ciò da cui parte il Beppino Englaro e ciò da cui parte tutto questo ragionamento, da ciò che viene stato riconosciuto dalle sentenze, è che Eluana Englaro avesse espresso una sua volontà. Quindi non è una valutazione che fa il padre, quella non è viva, l'espressione basata su testimonianze di una volontà che la stessa Eluana Englaro aveva espresso. Questo per dire che noi qui non stiamo discutendo di eutanasia, stiamo discutendo di testamento biologico, stiamo discutendo di direttive anticipate, che è una cosa diversa. Io trovo che sia, che non aiuti insomma la discussione sovrapporre le due cose diverse. Bene, 800 24 0024, la conversazione è aperta anche con i radioascoltatori. Stiamo parlando di Eluana Englaro e cerchiamo di parlarne, scusate i colpi di tosse, in termini un po' diversi dal solito. La vita artificiale, lei è in vita in modo artificiale. Claudia Mancina doveva rispondere a chi ha negato questo, a chi ha detto non è vero, perché se consideriamo in vita artificialmente tutti coloro che vengono aiutati a mangiare e a bere, qui dobbiamo fare uno sterminio. No, ora ecco appunto, questo mi sembra che sia un come dire, una estremizzazione del discorso che appunto non aiuta a capire. Non vedo come si possa paragonare la vita di Eluana Englaro a quella di un neonato, mi pare che proprio non ci sia nessuna relazione. E ripeto, non è un problema di soggettività, non è un problema di chi accetta o chi non accetta, è un problema di definizione, intanto di definizione dello stato di questa ragazza. Lo stato viene definito di coma vegetativo persistente, o qualcuno dice anche permanente. Io adesso per favorire il dibattito della discussione uso il termine coma vegetativo persistente, ma è assolutamente impossibile pensare che Eluana si riprenda da questo stato in qualunque modo, perché è passato troppo tempo, perché la sua corteccia cerebrale è sicuramente, come tutti i medici hanno detto, ormai compromessa. E quindi la questione dell'alimentazione è una questione che va vista obiettivamente come un presidio medico, è un intervento medico, non si può pensare che sia il soccorso dato dalla misericordia. Io penso che la misericordia e l'assistenza in generale sia una cosa importantissima, Non penso affatto che noi abbiamo il diritto di togliere la vita alle persone per ragioni magari di ordine economico, oppure perché appunto consideriamo che non sia degna di essere vissuta. Non condivido questo modo di pensare. Penso però che ci siano casi in cui le cose sono andate tanto oltre che quella non è più una vita umana, ma è per l'appunto una vita vegetativa. Ecco, qui c'è una questione. È una discussione tra cattolici e non cattolici, tra credenti e non credenti, tra persone che si sentono appartenenti a una cultura laica, quindi si sentono indipendenti dall'idea della fede, dalla fede stessa, e persone invece di fede, oppure è una discussione razionale alla quale tutti gli uomini devono partecipare in quanto uomini e in quanto cittadini. Secondo me è un po' vero che c'è invece un rapporto con l'idea di fede, anche se è un rapporto laico, non è un rapporto religioso. Io penso che sia un conflitto tra due carità, due idee di carità. Non c'è nessun bisogno, diciamo la verità, di accompagnare Eluana a una morte dignitosa. È un bisogno astratto, è un patto che un padre sente di avere contratto con sua figlia. Abbiamo sentito prima il sonoro, la figlia avrebbe detto al padre, secondo la sua testimonianza, non voglio essere tenuta in vita in quel modo lì, di fronte a un caso analogo di un suo amico. E questo è molto importante, naturalmente. Però al di là di questo, al di là del fatto privato, di un patto privato tra un padre e una figlia, in linea generale direi questa ansia di cercare di risolvere verso il nulla, verso l'irreversibilità della morte, il taglio di ogni speranza, casi come quelli di Eluana Englaro, ha un significato che è anche un significato culturale decente, non dico di no. Ed ha il significato di scristianizzare ulteriormente il mondo. Cioè, voi avete imposto l'idea, voi cristiani, noi cristiani, la nostra vecchia cultura cristiana, che la persona esiste indipendentemente da tutto, che ha un valore in sé. Voi avete imposto questa idea, in nome di questa idea avete creato le opere di assistenza, gli ospedali, le missioni, diciamo il tentativo di riscattare anche l'impossibile umano, Madre Teresa di Calcutta. Voi avete fatto questo e noi vi proponiamo un'altra via. La nostra idea dell'amore, carità e amore sono due sinonimi, la nostra idea dell'amore è diversa dalla vostra e vogliamo che abbia diritto di cittadinanza e vogliamo che si imponga e che prevalga anche attraverso il diritto, attraverso le sentenze, attraverso il diritto positivo. La nostra idea della carità e dell'amore è l'altra. Bisogna, come dire, accompagnare alla morte, non accudire e curare in vita. Questo mi sembra un conflitto vero, anche se non è necessariamente tra laici e cattolici. Che ne dice, professor Pessina? Ma io dico innanzitutto che molto freddamente si può accompagnare alla morte solo chi sta morendo. In realtà Eluana Englaro non sta assolutamente morendo. Certo, se noi non le diamo da mangiare e da bere, entro 15 giorni muore. La situazione di Eluana Englaro è una situazione nella quale non c'è il tema dell'accompagnamento alla morte, come avviene per esempio nelle persone che come dire, stanno morendo per delle varie patologie. La situazione di Eluana è una situazione stabilizzata e oggi il conflitto è indubbiamente anche il conflitto che lei sta dicendo, perché è come se ci fosse una sorta di risentimento nei confronti dell'idea, che però è un'idea che ha sposato come dire, la cultura laica occidentale, dell'idea che la dignità va allargata a tutte le condizioni della vita. Perché anche nel pensiero classico greco la dignità era sempre riconosciuta al cittadino, ma il cittadino era l'uomo libero, indipendente e autonomo. Oggi noi abbiamo imparato a fatica a riconoscere che la cittadinanza come riconoscimento della dignità va estesa a tutte le fasi della vita. Ora, qual è la colpa di Eluana Englaro? Che continuamente viene detta, tra virgolette, colpa, è quella di non avere un'attività coscienziale. E quindi allora, siccome non riprenderà, allora noi non dobbiamo più accudirla nelle sue funzioni elementari. Ma questo può valere anche, come dire, per delle disabilità gravissime. Ci sono moltissime persone che non sono in grado di accudire loro stesse, ci sono le persone malate di Alzheimer, ci sono gli anziani. È una strada scivolosa e l'abbiamo visto prima, professor Pessina, con quella testimonianza di quell'infermiera che ha detto: ragazzi, occupiamoci di coloro che hanno diritto di vivere perché hanno una vita che è degna di essere vissuta di fronte a sé. Che cosa ci occupiamo nei reparti psichiatrici delle persone che sostanzialmente è meglio se dolcemente vengono accompagnate alla morte? Paola da Milano. Dunque, sono Paola, medico. Ho 60 anni ed ho visto morire parecchie persone. Ed ogni volta mi sono chiesta qual è il mistero che fa sì che per un attimo prima, per quanto in coma, la persona fosse viva e l'attimo dopo fosse morta. Ho visto anche rianimare parecchie persone e alcune hanno ripreso, altre no. E ho visto fare una selezione nell'intervento della rianimazione. Vale la pena di rianimarlo o non vale la pena? Questo per un discorso legato all'ipocrisia delle strutture sanitarie. Per cui ritengo che il concetto di base, visto che nessuno può definire che cosa è vivo e chi è morto, chi ha diritto di vivere, chi ha diritto di essere lasciato morire, rimanga sul punto fermo della libertà di scelta di Eluana e di chiunque, perché se lo Stato dovesse porsi, come ha fatto recentemente Sacconi, come tutore della vita anche contro la volontà dell'individuo, dovrebbe mettere in galera tutti i barboni che stanno morendo adesso al freddo di Milano o quelli di Catania, dovrebbe far sì che le strutture rianimatorie diventassero delle megalopoli che non sono in grado di essere delle megalopoli. Per cui ritengo che non è una scelta ideologica. Paola, le faccio solo una osservazione, diciamo, amichevole nell'ambito di questa conversazione. Lo Stato può subire un suicidio, lo Stato può subire un rifiuto della vita, ma può autorizzarlo per legge? Può metterlo nel suo codice di comportamento? Questo è il problema. Può? No. La questione. Lo Stato deve innanzitutto riconoscere la libertà dell'individuo per la propria vita. Cioè, vale lo stesso discorso come per, in analogia al rifiuto di alcune cure da parte di pazienti rifiutando tale cura possono con sicurezza andare di fronte alla morte. Eppure lo Stato non può imporlo. Allora perché deve imporre alla Eluana una volontà diversa dalla propria? Va bene, mi sembra che abbiamo fatto una discussione tutto sommato civile su un tema abbastanza intrattabile e complicato. Segnalo a pagina 27 di Repubblica, 37 di Repubblica, un articolo di Monsignor Gianfranco Ravasi, che è il capo della cultura vaticana ed è un prete molto amato dai laici, molto amato anche da tutta la cultura moderna, da molte espressioni intellettuali della cultura moderna, che parla di convivenza del sacro e del laico. È un articolo in difesa dei simboli cristiani, del crocifisso come simbolo anche del dolore e della sofferenza, ed è un articolo attento in cui le ragioni della laicità, le ragioni del profano, della sua verità e della sua identità sono difese accanto alle ragioni del sacro nella vita e nell'esistenza di tutti noi. E chissà che la vita non sia appunto uno dei principali simboli del sacro, come il crocifisso è simbolo del dolore e della sofferenza che riscatta. Vi ringrazio molto, ci sentiamo domani mattina, e da domani farò anche l'elenco dei miei collaboratori che ancora non ho purtroppo e che voglio citare e ringraziare tutti i giorni. Grazie.